Before we return to Sarah and Lorenzo for a dialogue in the taxi, here's some useful vocabulary. Listen, understand, listen again and repeat. Ascolti, capisca, ascolti di nuovo e ripeta. Americana. American, the feminine form. Americana. In vacanza. On holiday. In vacanza. C'è. There is. C'è. No. No. No. La festa. The fair or the party. La festa. Del. Of the. Del. Il vino. The wine. Il vino. Quando. When. Quando. Domani. Tomorrow. Domani. Siamo. We are. Siamo. Fidanzata. Fiancé. Fidanzata. Niente. Nothing. Niente.